Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Di Cristina Carpinelli. In Sicilia le persone in difficoltà vanno a cercare le mafie, perché comunque le mafie hanno una cosa in più, hanno la liquidità anche economica, e quindi i fenomeni di usura aumentano e ai noi ci sono anche diminuiscono le denunce. È vero che in un momento di grave crisi la mafia ha preferito mostrare quel volto finto buono, quindi non so, sospendere il pizzo piuttosto che abbassare i tassi d'usura, piuttosto che portare addirittura la spesa a casa di chi aveva bisogno? Sì, in Palermo, io in particolar modo sono a Palermo, era molto molto evidente, anche perché questo, diciamo, portare a casa la spesa o questo buonismo che dicevi tu e riprendersi anche il territorio. Le mafie nei territori particolari a rischio, nei quartieri particolari, in questi anni hanno fatto un passo indietro, perché c'è tantissimo lavoro e c'è anche da dire che diverse associazioni stanno andando avanti con il proprio lavoro, però in questo caso, ecco, loro è stato, diciamo, un motivo in più per riprendersi il territorio, ed è, diciamo che può essere intesa anche come una strategia di riprendere anche il consenso, di ritornare a fare un po' quello che hanno fatto da sempre, come dicevi, un finto buonismo per poi avere consenso e continuare ad esserci. Il welfare dalle mafie è il titolo della puntata di oggi. Dunque, come avete sentito dalle parole di Lillo Gangi di Libera Sicilia a Palermo, nei quartieri periferici la mafia è arrivata subito a mostrare il suo finto volto buono con la distribuzione di cibo. Un gesto di finta solidarietà ripetuto in tante realtà, a Foggia, Napoli, ma anche nei quartieri periferici di Milano, Roma. La criminalità organizzata cerca di battere nel tempo il terzo settore e lo Stato, che con i sussidi ha cercato di raggiungere chi era in difficoltà, ma con risultati non sempre tempestivi. Quello che gli inquirenti chiamano welfare delle mafie consiste dunque in una serie di gesti di finta magnanimità, come il pizzo sospeso o l'annullamento dei tassi d'usura. Una trappola mortale per i negozianti e gli imprenditori che, con l'acqua alla gola per la crisi post-lockdown, hanno scelto di chiedere aiuto, per così dire informale, di fatto regalando la propria impresa alla mafia. Incamerare pezzi di azienda pulita serve alla criminalità organizzata per lavare il denaro sporco e arricchirsi, fare concorrenza sleale al mercato regolare e accaparrarsi sussidi di Stato o dell'Unione Europea. Quella di oggi è una puntata che darà voce a quel mondo del sociale che si sta battendo per arginare questo fenomeno. E allora partiamo dai dati con Michele Riccardi di Transcrime, un centro di ricerca dell'Università Cattolica sulla criminalità organizzata transnazionale. Avere delle stime e dei numeri esatti è ancora molto presto ed è in ogni caso difficile. Sicuramente ci sono dei segnali e dei sentori. Il primo segnale che possiamo raccogliere è quello che effettivamente nei mesi del lockdown e, diciamo, di questo 2020 particolare, ci sono stati numerosi cambi di proprietà in determinati settori di attività economica, a cominciare da quello delle attività immobiliari e quello della ristorazione e degli alberghi, che sicuramente sono tra i settori più colpiti dalla pandemia. Noi stiamo approfondendo proprio questo aspetto, cioè quello dei cambi di proprietà, Stiamo contando quante imprese hanno cambiato proprietario e allo stesso tempo stiamo anche vedendo chi è diventato il nuovo proprietario. In questa analisi, che è tuttora in corso, stiamo ad esempio notando che ci sono anche degli elementi anomali, ad esempio sul numero di trust coinvolti nell'acquisto di imprese, oppure di proprietari provenienti da giurisdizioni a rischio, come ad esempio giurisdizioni nella blacklist antiriciclaggio oppure a livello non cooperativo. Ma avete già delle indicazioni dei numeri che potete diffondere? Cioè, per esempio, sul passaggio di proprietà più o meno? Sì, abbiamo dei numeri che ora stiamo confrontando anche con l'anno scorso per capire se di quanto è stato l'aumento. Ma sulle attività immobiliari, ad esempio, in due mesi tra fine marzo e fine maggio abbiamo avuto 1315 passaggi di proprietà, cioè imprese immobiliari che hanno cambiato proprietario. Abbiamo avuto più di 1000 imprese nei servizi di ristorazione che hanno cambiato proprietario, questo solo in due mesi. Ora stiamo estendendo questa analisi anche ai mesi successivi, a maggio. Sicuramente chi in questo momento ha liquidità da poter spendere sul mercato e chi acquisisce questa liquidità sui mercati illeciti e quindi può poi spenderla sull'economia legale. E tra questi la criminalità organizzata e organizzazioni mafiose. Devo dire da questo punto di vista che ci sono alcuni settori che effettivamente hanno attratto e abbiamo avuto anche dei segnali da parte della polizia e del Ministero dell'Interno, alcuni settori che hanno attratto gli investimenti della criminalità in questo periodo, come abbiamo detto c'è la ristorazione, abbiamo i trasporti e la logistica, soprattutto i trasporti su gomma, in questo caso non tanto per un problema di crisi quanto piuttosto perché la logistica su gomma nel periodo del lockdown ha giocato un ruolo fondamentale nel portare avanti l'economia. Abbiamo settori collegati alla pandemia come quello della fornitura di servizi di pulizia, di servizi sanitari, la fornitura di servizi farmaceutici, anche perché poi abbiamo visto diversi casi, ovviamente nell'approvvigionamento di mascherine, altri dispositivi medici, spesso con comportamenti fraudolenti. Dietro queste frodi non c'è sempre la criminalità organizzata, ma in numerosi di questi casi abbiamo notato dei soggetti che poi sono contigui a criminalità nostrana. Europol ha lanciato nuovamente un allarme confermando un po' quello che era stato detto dalla DIA, quindi il rischio reale ormai praticamente incombente di infiltrazioni mafiose e criminali anche negli appalti dei fondi europei. Voi in qualche modo state monitorando anche questo? Avete qualche indicazione su questo? Noi ovviamente abbiamo gli strumenti per poterlo monitorare. Perché, come dicevo anche prima, oltre a fare delle ricerche e delle analisi, abbiamo elaborato anche una serie di indicatori, di strumenti e di tool che possono essere utilizzati da autorità di supervisione, da banche, da autorità pubbliche per monitorare proprio il rischio che questo non accada. Qua dipende poi dalla volontà politica di volerlo fare, quindi di dotarsi di questi strumenti, dalle risorse che si metteranno a disposizione, non solo per finanziare l'economia, ma anche per finanziare la prevenzione a rischio di infiltrazione. Sicuramente gli strumenti ci sono, poi ora tocca a chi deve adottarli di adottarli. Prima lei parlava anche di proprio settori che voi avete proprio intercettato con testimonianze dirette, mi parlava della costa romagnola, cos'è successo? In Riviera Romagnola e non solo, diversi albergatori e ristoratori sono stati avvicinati con delle proposte di acquisto dei loro alberghi, dei loro ristoranti da parte di soggetti che poi diciamo le indagini stanno rilevando essere contigui alla criminalità organizzata, ma è una cosa che è capitata lì e non solo, è capitata anche in aree metropolitane dove peraltro si concentra anche il maggior numero di aziende che hanno cambiato proprietà. Questo, le organizzazioni mafiose funzionano come un parastato, quindi così come lo Stato in momenti di crisi allenta in qualche modo anche le proprie imposizioni fiscali sull'economia, allo stesso modo fanno le organizzazioni mafiose che anzi si pongono e si presentano come erogatori di welfare e quindi di prestiti, di sostegno In alcuni casi l'abbiamo visto non tanto in Italia quanto all'estero, si pensa in Brasile, proprio come anche a sostegno dello Stato per mantenere il lockdown, il controllo sulla popolazione, il controllo sugli spostamenti. Quindi in questo, devo dire che in questo frangente di crisi complessiva, sicuramente chi ha liquidità da un lato la investe in attività economiche per poterne impossessare, laddove ci sono come dire, dei motivi economici e delle opportunità di profitto. E poi allo stesso tempo offre servizi di welfare per aumentare il consenso sociale, perché poi l'obiettivo e la ragione dell'esistenza delle mafie non è sempre e solo economica pura, ma è proprio legata al garantirsi una costante base di consenso, di sostegno, di omertà e di coinvolgimento della popolazione. Ci fermiamo qualche istante e torniamo tra poco. Ogni storia ha nel mezzo un confine, una linea da varcare oltre la quale la vita cambia. A Linee d'Ombra raccontiamo proprio queste storie, le vostre. Guardatevi alle spalle, cercate quella linea che avete oltrepassato e vi ha reso chi siete ora. Una linea d'ombra che vi ha fatto scoprire parti nuove e diverse di voi. Piccoli o grandi momenti che modificano l'arco della nostra vita e ci trasformano per sempre. Storie di infanzia diventata età adulta, di sport che ci ha trasformato, di passioni che ci hanno plasmato, ma anche piccoli episodi quotidiani che hanno tracciato un prima e un dopo. Se volete raccontarceli, scrivete un paio di pagine e mandatecele a lineedombra@radio24.it. Se volete ascoltarle, dal lunedì al venerdì, alle 15, solo su Radio 24. Io sono Matteo Caccia e le storie le racconto per voi. Ogni giorno alle 13 i nuovi fatti di attualità iniziano a prendere forma. In 60 minuti proviamo a spiegarveli bene, capire per farsi un'idea da condividere con gli altri, perché la cronaca non è solo una notizia dietro l'altra. Sono Alessio Maurizio e vi aspetto a Effetto Giorno, tutti i giorni alle 13, naturalmente su Radio 24. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere. I mafiosi nel post-lockdown sono andati a bussare alle porte di attività commerciali e imprese. Il prestito immediato, elargito come si trattasse di un vero atto d'aiuto e quindi con bassi tassi di interesse, si è poi trasformato in controllo dell'attività. A Linea Libera, il numero istituito dall'Associazione Libera per sostenere le vittime di mafia, sono arrivate in questi giorni numerose telefonate di imprenditori e negozianti che raccontano di essere stati contattati dai mafiosi. L'infiltrazione, e lo spiega bene la direzione antimafia, può avvenire anche con imprenditori mafiosi che si propongono come soci e finanziatori di imprese in difficoltà, salvo poi rilevarne la proprietà e acquisirne la gestione. Il rischio è doppio ed è quello che le organizzazioni criminali si facciano da un lato carico di fornire un welfare alternativo e dall'altro allarghino il loro ruolo di player affidabile ed efficace a livello globale, mettendo le mani anche su aziende di media o grande dimensione. Daniela Marcone è vicepresidente di Libera e vive a Foggia, ci racconta che la Sacra Corona Unita in Puglia non si è mai fermata, neppure durante il lockdown. La Puglia, come è noto, ha una situazione molto diversificata rispetto alla presenza della criminalità organizzata nei vari territori. Sicuramente possiamo dire che negli ultimi anni nessuna delle mafie o criminalità organizzate di stampo mafioso che hanno attecchito o comunque si sono sviluppate in Puglia hanno smesso la loro attività. Persino della Sacra Corona Unita, quindi dal centro-sud della Puglia, per quanto riguarda diciamo quella zona dal punto di vista geografico, e che pareva fino a qualche anno fa più diciamo quasi morta, quasi in quiescenza, in realtà dalle notizie che noi conosciamo a mezzo degli organi di stampa, delle indagini in corso e quindi anche di operazioni, di nuove operazioni in corso, in realtà nessuna appunto di queste mafie, quindi anche la Sacra Corona Unita, è sopita. In questo periodo di emergenza sanitaria, ma da cui è scaturita quella economica e sociale, abbiamo potuto notare che le mafie non hanno rispettato alcun lockdown, non si sono fermate, hanno continuato la loro attività probabilmente, da quello che ci è dato di intuire, sono in una fase di riorganizzazione. Sicuramente a Foggia, la maniera, diciamo, in maniera specifica, proprio durante il lockdown, i mesi di lockdown, abbiamo vissuto un episodio molto grave, l'ennesimo attentato attraverso una bomba ai danni dell'esercizio, diciamo, di un imprenditore locale del mondo della sanità, che già era stato oggetto a gennaio, gennaio e febbraio, di situazioni simili, di gravi attentati di questo tipo, e quindi l'ultimo è avvenuto proprio durante il lockdown. Quindi questo ci fa capire che quell'attività tipica delle mafie, che è quella di terrorizzare un territorio, di connotarsi come pericolose anche attraverso gesti eclatanti e di violenza, tanto che in quel momento appunto questa cosa è risaltata ancora di più, perché in una città silente, in una città appunto in cui tutti erano chiusi nelle case, loro invece sono riusciti a posizionare questa bomba e a farla esplodere, e questo ha colpito molto sicuramente la percezione diciamo della città circa la pericolosità di questa criminalità organizzata. La presenza di un'associazione come Libera sta creando un cambiamento. Non è un caso che persone come Daniela Marcone o Fabio Giuliani, che sentiremo, siano stati oggetto di minacce e intimidazioni. Bisogna, ci spiega ancora Daniela, lavorare sui giovani, portarli anche nelle aule dei tribunali dove si svolgono i processi per mafia, distruggere quella narrazione romantica della criminalità organizzata, arrivare insomma a distruggere il concetto di mafiosità, quella cultura del farsi fatti propri, del non denunciare, del condividere anche solo per il semplice fatto di non agire prevaricazioni e ingiustizie. La mafiosità è il posto di lavoro ottenuto perché è amico di un amico e non per merito. La mafiosità è il fingere di non aver visto per convenienza personale. Sicuramente ogni nostro sforzo fin dalla nascita di Libera, quindi dal 1995, è rivolto ai più giovani e ovviamente a quelle fasce della società che risultano più indifferenti alla percezione del fenomeno mafioso. Quindi gli sforzi sono tanti, le attività poste in essere sono numerosissime. Riguardo ai risultati concreti, ovviamente dipende da territorio a territorio, perché possiamo dire che ci sono dei territori a forte presenza mafiosa in cui i gruppi territoriali di Libera hanno un determinato tipo di problemi, nel senso che il fenomeno è molto vasto, molto presente, molto vivo, e quindi c'è un particolare impegno da mettere in campo, tenendo conto che i gruppi di Libera sono dei gruppi di volontari, di persone che hanno altre attività e scelgono nel loro tempo libero di dedicare quindi ogni momento libero a questa attività di contrasto alle mafie. E in altri territori dove invece la percezione mafiosa è molto bassa, diciamo nel centro nord, dove si pensa che le mafie appunto tradizionalmente non esistono e quindi non ci sono, anche lì c'è un altro tipo di sforzo da mettere in campo. Ma ovunque sicuramente sono stati raggiunti dei risultati molto importanti, sia in termini di memoria, di fare memoria, costruire memoria intorno al ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che poi è l'attività specifica di cui mi occupo io a livello nazionale, e sia diciamo per quanto riguarda progetti scolastici, attività territoriali di sensibilizzazione. sensibilizzazione, e questo sicuramente negli anni ha prodotto un risultato importante. Sicuramente dal 1995 ad oggi la percezione della presenza mafiosa nei territori è molto più forte. Anche la presenza di Libera nei processi contro le mafie, la costituzione di parte civile di Libera, che rappresenta l'intera collettività, è molto importante. Certe volte, riuscendo a portare nelle aule di tribunale intere classi scolastiche, questo, diciamo, anche per i giovani, no? Poter vivere direttamente i risultati di un percorso di giustizia in un'aula di tribunale rende anche, diciamo, la percezione molto più vitale e molto più forte. E indubbiamente il lavoro è ancora da fare. Sicuramente anche la nostra attività di proposta nei confronti del livello politico istituzionale in questo momento è molto forte, perché riteniamo che questo momento di ripresa non può lasciare indietro nessuno. Bisogna occuparsi delle classi più deboli, delle fasce più deboli della società, ed è importante farlo con provvedimenti importanti, senza tralasciare i pericoli che questa grande massa di capitali che arriverà, diciamo, e già sta arrivando nelle varie regioni d'Italia, possano finire nelle mani sbagliate, non lì dove realmente è importante che vengano impiegate. Anche qui occorre mettere in atto tutti quei meccanismi di controllo, ovviamente senza moltiplicare i passaggi burocratici, ma con dei passaggi efficaci e molto pertinenti. Anche a Napoli la camorra non si è tirata indietro e nella crisi, come ci racconta Fabio Giuliani di Libera Campania, ha sguazzato. Io credo che non ci sia stato un sostanziale cambiamento rispetto alle attività che le organizzazioni criminali, le camorre campane, svolgevano prima. La crisi post lockdown, o anche durante il lockdown, ha dato ulteriori possibilità alle organizzazioni criminali, soprattutto di accrescere il proprio consenso. E da sempre le organizzazioni criminali chiedono, cercano e trovano consenso nelle classi più disagiate della collettività, e pertanto quella è stata un'occasione ghiotta. Naturalmente bisogna anche circoscrivere alcuni comportamenti e non fare poi troppa confusione. Le camorre in Campania sono di multilivello, ci sono elementi di gangsterismo urbano che sono tipici di ogni metropoli europea, e poi ci sono invece gruppi organizzati storicamente strutturati sul territorio che da sempre hanno offerto ipotesi di welfare criminale, di sostegno sia alle piccole imprese ma anche ai cittadini, e che quindi hanno continuato a farlo con il solo scopo, appunto, di, ribadisco, di cercare consenso, perché consenso significa una popolazione, significa controllo, significa piaceri, significa avere un livello reputazionale che ti consente poi di fare altre cose. La puntata termina qui, potete scriverci a diario@radio24.it. Un saluto da Cristina Carpinelli. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.